avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire. Chi porta i pantaloni in casa degli italiani? Sarebbe bello domandarselo, ma la disputa non sarebbe per nulla una questione di sesso. Non si tratta se comandino gli uomini o comandino le donne. È quasi certo che nelle case degli italiani comandano gli animali. È uscito giorni fa sul Corriere della Sera una bella inchiesta di Elisabetta Rosaspina, dove si fa un conto di quanti siano gli animali domestici nelle case degli italiani. In quasi 9 milioni di famiglie, quindi 25 milioni di esseri umani, cioè la metà degli italiani quasi, il 45% degli abitanti del nostro paese, convivono animali domestici. Ci sono oltre 7 milioni di gatti, altrettanti cani, 15 milioni di pesci rossi o pesci tropicali e 12 milioni di uccellini. 12 milioni di uccellini nelle case degli italiani. E c'è ancora chi si lamenta della solitudine, dei loro urvacui, della disattenzione. Questo mi fa riflettere, mi fa pensare che in effetti un viraggio di costume, di tendenza c'è senz'altro stato. Gli animali domestici, nel mio ricordo di una famiglia con madre gattara, erano esseri con i quali si era continuamente in conflitto. Metti fuori il gatto, fai uscire il cane, e dai da mangiare al pesce. E c'era sempre questo non farlo salire sul divano, oppure mamma non voglio il gatto sul mio letto che mi lascia i peli, e no dai poverino è triste perché lo abbiamo sterilizzato, e via dicendo. Erano degli esseri con cui entravamo in conflitto, c'è una sorta di epica e primordiale maniera di contrapporsi noi impavidi paladini della nostra umanità con i rappresentanti evoluti del genere animale, che un po' come nella narrativa e nella favolistica classica ci davano mestamente lezioni di vita, e un po' cercando di conquistare i loro spazi di umanità contendendoli con noi. Oggi è totalmente diverso. Sono uscito nella giornata di ieri con due persone. Non ne dirò il nome, dirò di sesso opposto, altamente collocati nella scala gerarchica delle professioni. L'uno, prima un uomo e poi una donna. Entrambi avevano fretta di tornare a casa perché avevano dei gatti a casa. Devono dargli da mangiare, togliergli la palla di pelo dalla gola, carezzarli, pulirgli la lettiera e togliere la cacchina alla pipì e portarla come se fosse una reliquia fuori. Non so bene cosa. Fatto sta che la loro attenzione emotiva era nella tutela del gatto. Ora, se lo dico così, sembra già che mi sia schierato dalla parte dei difensori dell'umanità che non deve essere contaminata dal mondo animale. Non è così. Sono nato e vissuto in campagna, ho tanto amato animali, ho avuto una visione quasi mistica da Carlos Castaneda, una volta che il mio Scottish Terrier che andai a salvare dalle fauci di un pastore tedesco, per riconoscenza mi azzannò la mano, mi fece un rabbercio alla bene peggio, passai una notte di incubo sotto farmaci antidolorifici, ebbi la visione della soggettiva del mondo vista da un cane. Camminavo a 20 cm a terra, perché lo Scottish Terrier ha le gambine piccole piccole, sembra che ari la terra quando cammina. È esattamente quello, vedevo il mondo, vedevo sotto le seggiole, vedevo sotto il letto, era bello sentirsi cane. Non so per quale misterioso motivo, per quale roba che mi hanno sparato nelle vene al pronto soccorso, ebbi questa visione e capii com'è il mondo visto da un cane. Certo, non è un mondo simpatico, sono tutti più alti, più grossi, con dei grossi piedoni che ti pestano sempre, le case non sono fatte a tua misura, quindi devi conquistare a suon di zanne, di artigli, il tuo spazio. Beh, questa mattina vorrei, siate voi animalisti o siate strenui difensori della divisione dei territori fra uomini e animali, qual è il vostro punto di vista? Quanti animali avete in casa? Come li trattate? Come non vedete voi l'ora di tornare a casa e portare il vostro cagnolino con un sacchetto di nylon nell'altra mano per raccoglierne poi le sacrosante miracolose feci in giro per il vostro circondario di casa vostra? Quanto quanto non sognate che accarezzare e scaricare ogni tensione con il vostro gatto, quanto rimanete in ipnotica contemplazione della vasca dei vostri pesci rossi, insomma, quanto tempo, quanto amore, quanta affettività dedicate ai vostri animali, o al contrario, quanto odiate quelli che vanno in giro con il cane e vi sporcano i marciapiedi, quelle case in cui vi siedi sul divano e ti alzi, vedi i bei pantaloni blè del tuo vestito buono e riempiti di peli che non andranno mai via nemmeno con le spazzole più raffinate. Quanto detesti vedere le persone che vai a trovare e prendono subito un gatto in grembo e già pongono un limite alla tua possibile conquista di quel grembo. 800240024. Dici mamma. Mamma. Della stampa. Mamma. Mamma, ma ti faccio anche una papà buona oggi. Ma sei brava, vieni a dare un bacino anche alla mamma, vieni. Pronto, Attila? Chiama mamma. Mamma. Attila. Mamma. Bravissimo. Vai, ciccio. Non è uno sketch, è una rassegna di video che Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini hanno preso e riversato da YouTube, dove delle persone spontaneamente hanno messo a disposizione di tutti, quindi anche nostra, la possibilità di vedere quanto sia profondo e radicale il loro rapporto con gli animali. Padroni di animali non si può dire, è un termine politicamente scorretto. Simpatici tutori, amministratori di amici felini cercano di insegnare ai loro amici a quattro zampe a dire mamma, come se fossero dei bambini. Ormai la trasposizione totale, l'immedesimazione nella maternità e paternità sostitutiva di un animale è perfettamente realizzata. Dì al telefono, saluta la mamma, saluta il papà. Notate e intravedete forse dello scetticismo nelle mie parole, semplicemente perché sono vecchio, non sono abituato a questo. Ai miei tempi c'era sempre una schiera di parenti che erano contrari alle mamme gattare, dicevano gli animali portano le malattie, e ti aprendo l'enciclopedia ti mostrano quali terrificanti scempi poteva fare nel nostro corpicino di bambini l'echinococco se noi davamo i bacini al cane o giocavamo con il cane perché ci piaceva da piccoli, quante infezioni portano i gatti che non dovevamo toccare o tenere distanti. Questo era un atteggiamento totalmente razzista nei confronti del genere animale, che naturalmente di cui vedevamo i limiti. Ma altresì ci sembra esagerato che oggi, ci sembra perlomeno diverso dalle nostre abitudini il fatto che oggi un animale sia così profondamente entrato nell'armonia familiare, nella vita familiare, essendo cambiate anche le case sono sempre più piccole, sempre più apparentemente asettiche, sterilizzate, custodita all'insegna del nitore, pieni di deodoranti, pieni di detersivi, pieni di sgrassanti. Lo sgrassante è uno degli elementi che più amo in casa, perché lo dai e viene tutto lucido, con quel buon profumino di limone o di altre misteriose e fantomatiche sintetiche essenze. Quando c'è un animale in casa, mi dispiace dirlo, lo dico con dolore, non vi offendete voi che amate gli animali, ma la puzza si sente subito. La lettiera del gatto è qualcosa di mefitico, che si sente già fuori del portone. E non è quando entrate mi fate quei bei sorrisini, mi fate picci picci, pucci pucci, guarda carino, guarda... Sì, è carino, è bello il gatto, mi piace, è simpatico, ma la sua cacca puzza alquanto. Ve ne rendete conto? 800240024. Dopo 4 anni dal suo grande fratello, qualcuno ancora chiama... Ciao. Simona Salvemini. Tra quanto ti vengono a prendere? 5 minuti. Tra 5 minuti vengono a prenderla. Che stai zitto! Per portarla ospite VIP. Un cambio merce. In un negozio per cani. Io do la mia presenza e loro mi riforniscono tutto ciò che ho bisogno per il mio cane, da vestiti, cucce, borse. Allora mi mostra i vestiti per cane. Certo, i siti. L'armadio dei cagnolini, Charlotte. Il profumo. I pigiami, le vestiti con le palle. Te stai zitta! E Martina. Ah, l'accappatoio. L'accappatoio per chi? Di Martina, Martina questo? Martina, sì. Glielo metti dopo la doccetta? Sì. Ma te vivi con mamma? Certo. Non è mica sono scema che mi pago l'affitto, le bollette. Di quant'anni c'hai? Il più lucido osservatore della contemporaneità che Enrico Lucci va a casa di una poverina sfigata superstite di barlumi di gloria di un grande fratello che si è perduto nella nostra memoria catodica, che investe quel po' di celebrità che le ha regalato la televisione nel fare testimonial di piccole attività di quartiere, tra cui un negozio di animali, ma non in cambio di denaro, in cambio merce. Questo fa sì che sia diventata una feticista dell'accumulo di accessori paradossali per i suoi cagnolini, fino all'accappatoio per cagnolino, di cui Gianni sarà senz'altro provvisto. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Lei ha 7 animali, 3 cani e gatti in casa. 4 cani e 3 gatti. Meraviglioso. Cani, 3 gatti. E non fanno mai canizza fra loro? No, si sopportano in qualche modo. Devo dire che i gatti vanno in disaccordo tra di loro, ma con i gatti, con i cani no. Però vivrà in campagna, in aperta campagna, avrà una casa molto grande. Ho una casa in campagna e comunque pisciano in casa normalmente, ognuno, pur avendo la possibilità di andare fuori. Ognuno ha i suoi gusti, se questo vi fa piacere, vi fa sentire... No, non è che mi faccia piacere, però è diventato quasi una regola oramai. Sì, nel senso che non si riesce a gestire tutti i il confino umanitario degli animali che sporcano in casa probabilmente non farebbe inviperire nessun animalista da un punto di vista correttivo, però lei in fondo uno prende, sono dei buoni prodotti, è anche un hobby, un bricolage domestico che riempie il tempo. Ma lei ha anche figli, una famiglia numerosa o vive solo? No, vivo da solo. Ma vivono, sono già grandi. Beh, quindi in parte sono la sua famiglia, è l'esempio in cui gli animali riempiono la mia famiglia, esattamente. Quindi è comprensibile. Però avendo una casa in campagna è anche abbastanza accettabile. Lei riuscirebbe secondo lei a vivere in un appartamento di città con tutti questi animali? Assolutamente no. Quindi il suo è un esempio, diciamo, di animalismo arcaico. Vivere solo in casa, in campagna, pieni di animali, in fondo è un piacere, un gusto estetico, non ha nulla a che fare con la compulsività che abbiamo sentito nella residuata del Grande Fratello che compra gli accappatoini. Come si chiamano i suoi animali? Visto che sono 7, come 7 nani, ce li dice tutti. Allora, i cani iniziamo. Il più anziano si chiama Cicco. Cicco. Poi c'è una trovatella che si chiama Cicca. Sì. Poi c'è uno che si chiama Gas Gas. Poi c'è un altro che si chiama Kiss, e sì. Poi ci sono i gatti, che uno si chiama Pippo, l'altro si chiama Ludwig, nome molto importante essendo un certosino. Certo. E l'altro si chiama Lee, che è un nome molto più comune. Anche in nome, diciamo, della globalizzazione, della caduta di ogni pregiudizio. Esatto. Va bene, mi fa piacere, complimenti alla sua famigliola, di tutti i suoi piccoli amici a quattro zampe. Giuliano, buongiorno. Lei invece? Io invece fino a qualche anno fa non sopportavo molto i cani, i gatti, non lo so perché, poi dopo... Vabbè, capita, non si sopportano gli esseri umani. No, nel senso, no, non avevo una confidenza, cioè non che li odiavo, per l'amor di Dio, però non ci stavo a contatto volentieri. Poi un giorno mi è stato portato un canino in casa da mio figlio, che poi è andato via, poi mia figlia ne ha preso un altro quando è andata via per lavoro, quindi... Me lo ha lasciata. È diventata una discarica di animali abbandonati. No, mia figlia ha dovuto andare per lavoro fuori, mio figlio se l'ha portato dietro il cane. E quindi adesso cosa c'hai in eredità adesso? Io ho un cane e la gatta che c'ha la mia compagna, quindi sia il cane che la gatta ora sono diventate persone a me con me di fiducia. Cioè, le lascia le chiavi di casa, le manda a portare la posta, queste cose. No, il problema ora è che mio padre, purtroppo, che ha una certa età, si è sentito male in ospedale. Quindi è il cane che spesso durante la giornata, quando noi lavoriamo, magari lo porta a fare una passeggiata. È da domenica che sta molto male il cane. E questo mi ha fatto telefonare per dire che penso che gli animali siano meglio dell'uomo. Quindi lei è diviso fra due necessità di assistenza ospedaliera, quella del padre e quella del cane? No, il cane c'ho anche mia madre a casa, per fortuna. Ah, ci pensa la mamma, per fortuna. Ora in questo momento, sì, mia figlia quando non lavora. Quindi, no, ma quindi lei si occupa del papà in ospedale e la mamma si occupa del cane malato a casa? No, il cane ora sta bene. Ah, è guarito. Fortuna, vabbè, allora faccio auguri che anche suo padre possa guarire. Pasquale. Sì. Lei ha avuto gli animali, sono intromessi nelle sue storie d'amore? No, io non ho avuto io animali, l'ha avuto la mia compagna. Abbiamo compagna che siamo stati insieme, ci siamo conosciuti circa 20 anni fa, la storia è finita 3-4 mesi fa per colpa di 3 gatti. Sono entrati nella vostra storia d'amore? Sono entrato io nella loro storia. Ah, quindi era lei l'intruso che aveva rotto? Ero io l'intruso, ero io quello di troppo, presumo. e boh, i gatti erano quindi lei sentiva nel ruolo di un amante rispetto a una persona coniugata poligama, poliandrica, con tre gatti. Con tre gatti, sì. Il gatto veniva prima del lavoro, il gatto veniva prima di un nostro weekend. Non veniva prima, non esisteva weekend perché dopo il gatto non poteva stare. Ma ve li portavate dietro quando uscivate? No, assolutamente, anche perché io il gatto è un animale che a me, io amo molto il cane, ma il gatto è un animale. E lei, scusi, non vorrei entrare adesso in aspetti, diciamo, però bisogna dirlo per necessità di informazione scientifica. Anche nei momenti di intimità erano testimoni questi tre gatti? Anche nei momenti di intimità. No, ve lo immagino, la tortura. Stava sul letto. Il gatto che nel momento più bello il gatto veniva vicino, ciao Pucci Pucci amore amore, di qua di là, e allora c'è una condivisione orgasmatica con tre gatti, che non è una cosa bellissima. E lasciavano su di lei segni con le loro unghiettine per vendicarsi? No, a me no, perché il gatto con me non si avvicinava, perché lei diceva che io il gatto non si avvicinava. Quindi lei doveva partecipare a una gangbang con tre gatti e fare buon viso a cattivo gioco. Pasquale, capita nella vita. Capita. Capita, buona giornata. Vivian, perdona l'attesa. Oh, Armando, sta tranquillo. Shampoo, maschera e manicure, ma per mezzogiorno deve essere pronta. Pranziamo con mia nipote a Luna. Certo, sarà perfetta. Lo so, tesoro, anche tu mi mancherai. Trattamela bene, niente smalto, ok? Certo, niente smalto. Oh, speriamo che mi metta il fiocco rosso. Mi sento tutta Barbie oggi. Bemini esce con Scooter. Ha un bel pedigree. Ti prego, quel cane insegue le macchine ferme. È più svitato di un labradoodle. Gli do una settimana al massimo. Ehi, non fatemi fare gestacce. Buon per te, Bimini. Trovare un fidanzato con le carte in regola è un'impresa. Il vero amore, poi. A me basterebbe uno che non fosse... operato. Ci sono dei tanti film in cui gli animali assumono atteggiamenti umani. Beverly Hills Chihuahua, un film del 2008 della Walt Disney, fatto apposta per i bambini ma anche per gli adulti. Penso quanti animalisti e quanti possessori di Chihuahua useranno questo film come loro feticcio quotidiano. È una storia di un Chihuahua che deve fuggire da un Doberman, e quindi c'è questo mondo diviso fra buoni e cattivi. Buoni sono i Chihuahua e i Doberman sono i cattivi. Cosa farà il Doberman una volta che prende il Chihuahua? Questo non vogliamo saperlo, perché non vogliamo entrare in così complicate relazioni. Ci fermiamo, diamo la linea alle informazioni della borsa. Mi raccomando, fra un istante ci racconterete le vostre più intime relazioni con i vostri animali di casa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Tanto per capirci, noi non abbiamo lo stesso concetto del tempo che hanno gli esseri umani, perché voi avete l'orologio, noi sappiamo solo che andate via. Abbiamo la certezza assoluta che non ci siete, ma non sappiamo esattamente per quanto tempo, e questo ci stressa. Perché i cani tra loro si annusano sempre di dietro? Questa è la nostra maniera di stringerci la mano. Se vuoi capire bene chi hai davanti, devi annusargli il di dietro. Figliolo, smettila di parlare col cane. Entriamo in esopici paradossi quando i cani spiegano agli umani quale sarebbe la migliore maniera per conoscersi tra loro, e su questo c'è ben poco da dire, è chiaro. Noi ci siamo ricoperti di strati e strati che ci nascondono nelle nostre più genuine rappresentazioni intime. Stiamo parlando degli animali in casa, stiamo parlando del rapporto degli italiani con i loro animali domestici. Stanno arrivando un'infinità di messaggi, soprattutto su Facebook. Vedo poco coraggio da parte del pubblico femminile di parlare di questo rapporto. Mi rendo conto che è a gestione più tipicamente maschile. Gli uomini sono entusiasti di raccontare la sovrabbondanza, l'esornazione di amore animalesco che gira per le pareti di casa loro. Volevo sentire a questo punto un ospite che ci ha ascoltato finora. Volevo che ascoltasse le vostre reazioni, i vostri racconti, per poi darmi un giudizio e darmi anche delle spiegazioni tipo tecnico. Claudia Bordese, buongiorno. Buongiorno. Claudia Bordese è una biologa, si occupa di comunicazione e divulgazione scientifica, è stata ospite della nostra trasmissione a parlare dei suoi libri, come Vivere a spese degli altri, che è l'elogio del parassitismo, che è una delle caratteristiche che permette agli animali di poter convivere anche con noi, Edizioni Blu, e Sesso selvaggio, quando ad amare è la natura. Ricordate la fantastica rassegna del Kama Sutra degli animali, a cui anche qui avremo molto da imparare. Dottoressa Bordese, dal punto di vista dell'inchiesta che ha fatto il Corriere della Sera, di quello che lei ha sentito, trova che ci sia un passo un po' troppo estremo nel rapporto affettivo fra uomini e animali domestici? Sicuramente più che altro quello che oggi viene mascherato come estremo amore verso questi compagni e amici domestici, in realtà è una maniera per non voler più vedere la loro natura animale, quindi cancellare il loro essere animali e cercare di trasformarli in amici quasi umani. Ma agli animali fa piacere questo, fa bene, o loro vorrebbero continuare a essere animali, non gliene importa nulla avere il cappottino, le scarpine, l'accappatoiino? A loro, il mio modesto parere, facciamo un enorme danno perché se parliamo di cani, ad esempio, che sono animali come gli uomini, estremamente socievoli e che necessitano di vivere all'interno di un branco, sono felici di far parte di una famiglia proprio perché si sentono poi parte di quel branco. Starà a noi dargli il ruolo giusto, ovvero sia non quello del dominante, ovviamente, che dovrebbe spettare al padrone umano, insomma, di casa. Ma devono continuare a essere animali, ovvero sia loro devono approfittare del nostro essere uomini e noi dobbiamo approfittare di quelle che sono le loro virtù animali. D'altronde non è il primo caso in natura di animali di specie diverse che convivono, tutte quelle che sono le simbiosi, il paguro Bernardo con l'attinia sopra la conchiglia e tanti altri esempi, dimostrano come in natura animali di specie diverse possono tranquillamente condividere, utilizzando a proprio favore le caratteristiche dell'altro senza danneggiarlo. Mi sembra, dottoressa, da quello che lei dice però mi sembra capire che la parte attiva di questa simbiosi sia proprio gli animali, che hanno trovato un nostro punto debole, che è il vacuum affettivo, e hanno trovato maniera comunque di avere una buona possibilità di sostentamento e di vita felice nell'ambito, non so, delle realtà metropolitane, ad esempio, dove sarebbe difficile per loro. In origine c'era uno scambio più alla pari, il cane fa la guardia, io in cambio gli do da mangiare, il gatto mi caccia i topi, io in cambio gli do la cuccia calda e nuovamente da mangiare. Adesso troppo spesso si è persa l'utilità dell'animale ed è diventato allora un oggetto quasi di mobilio che vogliamo vezzeggiare e curare come una bamboletta, e questo è molto umiliante. Io vorrei ricordare, se lei me lo consente, perché non voglio dare l'impressione, perché so che finita questa missione sarò sommerso da messaggi di persone che mi minacciano e mi dicono che hai avuto un atteggiamento discriminatorio nei confronti degli animali, che io stesso sono stato possessore di tanti cani e ricordo come un momento emotivamente molto forte un funerale a un cane che feci insieme a mia moglie, allora era la mia fidanzata, lo amavamo tanto, quando morì gli facemmo la bara, lo andammo a seppellire, che la dottoressa Claudia Bordese è stata anche lei padrona di tanti cani e recentemente ha avuto un lutto, mi sembra, è morto un cane. Sì, io ho avuto per oltre 20 anni di cani e pochi mesi fa è morto il nostro ultimo cane e aspettiamo a breve di poter prendere un altro cane, perché comunque chi è abituato ad avere un animale in casa poi ne sente veramente la mancanza. Quando è morto il nostro ultimo cane per me è stato effettivamente un dolore forte. No, ma è un lutto assimilabile alla morte, non dico di un congiunto stretto, ma di un caro amico, quello sì, è stato un dolore profondo. Indubbiamente, un cane è sicuramente, ma immagino, non ho mai avuto gatti, immagino sia lo stesso per chi ha gatti, diventa veramente un caro amico, un compagno tranquillo che ti segue dappertutto e che ti sostiene sicuramente, magari nei momenti di solitudine o di tristezza. Ecco, entriamo allora nell'argomento cane. Il mondo, dal nostro punto di vista, non è né meglio né peggio del vostro. È semplicemente diverso, molto diverso. Perché se noi inevitabilmente ci perdiamo quel che accade in alta quota, voi vi perdete quel che accade rasoterra. Intendo dire, noi non conosceremo il mondo dei piani nobili, ma in compenso voi non sapete nulla dei giochi di luce ed ombra tra i cespugli e i fili d'erba, nulla dell'infinita gradazione degli umori della terra, nulla del lavorio inesausto degli insetti. Api, cavallette, formiche, mosche, scarabei e calabroni. Franco Marqualdi, buongiorno. Buongiorno. Franco Marqualdi, poeta e scrittore, autore di Baldo, I cani ci guardano, edizione in audio a cui abbiamo tratto questo brano, è il mondo visto in soggettiva dal proprio cane. Lei della sua trasposizione poetica ha avuto un'esperienza simile a quella mia da peyote, quando mi morse il cane che vidi il mondo come lo vede il mio cane. Sì, diciamo, io qui ho cercato di fare con un atto arbitrario, come sempre accade in letteratura, lo sforzo di provare a pensare quali sono le emozioni, le sensazioni, i sogni, i pensieri di un cane e provare a osservare il mondo dal loro punto di vista, appunto i cani ci guardano. Lei guardava il suo cane e cercava di immaginare cosa potesse pensare in quel momento. Sì, esatto, diciamo il rapporto con un cane è molto strano perché da un certo punto di vista sono le creature con cui viviamo più da presso, diciamo, con cui c'è maggiore intimità, la quantità di tempo che io passo con il mio cane forse non la passo con nessun'altra creatura umana. Ho questa fortuna, non tutti l'abbiamo. Io abito in campagna, quindi vivo con lui e con altri due cani, cioè sua moglie e suo figlio, poi con tre gatti e un po' più lontane tre galline, quindi tutto il numero tre governa, diciamo, la nostra vita quotidiana. Eccetto lei che è solo, però. Prego? Eccetto lei che è solo e deve poi occuparsi di tutte poi queste cose. La mia compagna che va e viene, diciamo. Ambes. E, contemporaneamente, però, la cosa strana è che i cani anche, però, c'è qualcosa che ci separa inevitabilmente. Da loro c'è questa domanda muta, insistente, non verbalizzata, ma che chiede relazione, e fa sì che il rapporto con loro sia sempre molto tenero, ma anche desti in qualche misura inquietudine. Allora io ho provato ad entrare, diciamo, in questo mondo e ad assumere il suo punto di vista, cioè il punto di vista di Baldo. Allora io sono d'accordo con le cose che sono state dette in precedenza, anche a me infastidiscono parecchio molti bamboleggiamenti che vengono fatti con gli animali, però il tentativo di questo libro, più che sull'umanizzazione, diciamo, del cane, è volto a una, diciamo così, animalizzazione dell'uomo, cioè a dire il rapporto col proprio cane è un rapporto affettivamente molto intenso, ma io credo che non sia meno intensa l'aspetto conoscitivo, ecco, che le lezioni che il cane ci può dare. Questo non è un saggio, questo è un racconto naturalmente, però Baldo, in modo così molto semplice e anche ironico, mette in luce tanti elementi, diciamo, fallaci del nostro delirio antropocentrico, Questo è chiaro, Marco, lo provo a chiedere alla dottoressa Claudia Bordese. È chiaro che un poeta trova ispirazione in elementi simbolici che lo circondano, può essere una natura, può essere un animale. L'animale improvvisamente diventa per lui il supporto di una sua lettura, di un suo approfondimento. Ma lei trova che non ci sia un po' di sforzo tipicamente umano nel cercare anche di attribuire, interpretare pensieri umani, sentimenti umani, punti di vista umani in un animale? Secondo lei il cane veramente ci guarda e chiede affetto, chiede semplicemente lasciami in pace, dammi la pappa o aprimi la porta? No, un cane sicuramente quando guarda il suo padrone o gli altri membri, componenti della famiglia, guarda e cerca affetto, perché è nella sua natura, il cane è un animale creato dall'uomo, nel senso che è il frutto della domesticazione molto probabilmente di lupi, che sono a loro volta animali estremamente sociali, ovvero vivono in branco, vivono in gruppo, aiutandosi uno con l'altro. Per cui il cane cerca sempre lo sguardo dell'uomo perché cerca l'aiuto, cerca l'appoggio e cerca l'affetto. Quindi non sbagliamo nel vedere quello nel loro sguardo, assolutamente. Diverso è il discorso col gatto, che è sicuramente un animale più solitario. Anche il gatto selvatico in natura, in generale, è un animale solitario, non è un animale di branco. Per cui hanno due atteggiamenti diversi. Il gatto forse quando ci guarda dice dammi la pappa e poi togliti dai piedi. Questo è più probabile. Ecco, ci fermiamo un istante perché devo dare la linea all'informazione del traffico. Intanto saluto Franco Marqualdi e Claudia Bordese perché gli ultimi due minuti li dedicherò agli ascoltatori. Connu quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des. Eccoci addirittura d'arrivo, ma durerà così fino al Salone del Libro che daremo spazio a la rubrica sui libri che hanno fatto la storia del nostro paese. Vi ricordo che anche con Melog saremo al Salone del Libro dalla prossima settimana, esattamente giovedì e venerdì prossimi trasmetteremo da Torino e venerdì sera avremo una grande kermesse radiofonica che sarà una sorpresa, in cui ci sarò io e ci sarà anche un'altra persona che vi sarà detto a tempo debito. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Io vivo a Roma, ma in una casa che ha un grande giardino e anche grazie a questo fatto ho posseduto una svariata diversità di animali. Ho posseduto, li ha avuti in casa? Sì, sì. No, lo sai, stiamo parlando, sì, si fa presto a scivolare. Sì, molto, molto a scivolare. Ho avuto due paperelle che mi furono regalate da un mio amico di scuola e che chiamai con due nomi dei bulli della plebe romani, perché studiavo molto in quel periodo, Terenzio e non ricordo l'altro. Però pensavo fossero dello stesso sesso, invece erano di diverso sesso, il che ha comportato il esponenziale numero di 24 paperelle che poi furono regalate a un campo da golf. Beh, sono molto prolifiche le paperelle. Molto, molto prolifiche. Poi ho avuto... Non a caso lo strozzapapere è una gergale trasposizione della mascolinità. Cani, numerosi perché, complice la mia essenza, mia madre fece figliare una femmina e divennero il numero di 7. Ah, lo sventrapapere mi suggerisce Chiappini. No, scusi, era una precisazione etimologica. Prego. Quando i cani divennero 7, perché ne nacquero 5, in quello stesso periodo avevo anche un gatto e due conigli che dormivano tutti in camera mia. Guarda che il coniglio... Ho avuto anch'io coniglietto, mi ha spacciato per coniglio nano giapponese, poi è diventato un bestione, l'ho regalato a un contadino che mi ha giurato, non so, sarebbe mangiato, ma già rideva. Non hanno un grande odore comunque. No, i conigli, il problema non era la dimensione. Poi si mangiano i fili della corrente, è un casino. Se li mangiavano tutti, la stampante non funzionava. Tutto, tagliano più tutti i cavi che vedono, troncano tutto. Qualunque cosa. Il problema non era la dimensione, ma il fatto che uno dei due, essendo mi pare angora, che è quella tipologia... col pelo lungo... E avendo purtroppo contestualmente dei problemi intestinali, di dissenteria, mi toccava fargli il bidet praticamente ogni giorno. Ah, ma non faceva quelle palline tipiche del coniglio? No, quell'altro faceva la faccia la scioltina. Lo so, è un problema. Però sa, per i nostri amici a quattro zampe questo è altro. Gabriele. Nicoletti, complimenti per l'argomento perché è di indubbio interesse. Certo. Io mi trovo in una situazione stranissima, perché anziché possedere degli animali sono posseduto dagli animali. Lo so, ci siamo arrivati alla fine di questa missione, lo so. L'animale era proibito, non si poteva avere. A un certo punto una sera entra una pappagallina in casa mia, mi vede, il veterinario dice che ha avuto un secondo imprinting, mi ha adottato. Dopodiché il veterinario stesso, complice evidentemente una sua situazione economica, ha deciso di mettere a fianco alla pappagallina un pappagallino. Oggi ho 19 pappagalli e 3 in arrivo. Vabbè, una sera arrivo a casa. Ha una voliera in casa? Una voliera. Ho una stanza dedicata alla voliera perché sono veramente ingombranti. E non le dico gli odori, questo evidentemente ha ragione anche io lei. Io non voglio una dire, ma. Arrivo a casa e mi trovo un gatto di bosco ferito, il quale si fa curare, va dal veterinario, fa l'effuso al veterinario mentre lo cura, adesso vive nel mio salotto. Vado in piscina e mi trovo una tartaruga che entra in piscina. Ce l'ha in casa anche quello. D'inverno, nella piscina coperta, arriva un airone che si deposita in piscina. Io non so cosa fare. Lo so, lei ha una particolare attrattiva. Sarà un feromone che lei emette, che fa andare invisibilio tutti gli animali che vogliono solamente possederla. Grazie, la ringrazio. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e lascio la linea. Melog 2.0. Alors tous deux, on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés.